Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Apriamo allora la settimana anche con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, il primo di due temi importanti. E quanti di noi non hanno mai ricevuto o sono stati contattati da una catena di Sant'Antonio in diverse forme? Adesso vedremo di capirci qualcosa, lo facciamo con il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, le catene di Sant'Antonio non sono solo quelle delle preghiere, anzi qui le preghiere, la religione c'entra ben poco, no? Di cosa si tratta? Certamente c'entra ben poco e fortunatamente qualcuno ha cominciato ad entrare nel merito di queste catene di Sant'Antonio, di questo marketing piramidale, e finalmente è stata la Cassazione questa volta, una volta per tutte, a sgombrare ogni dubbio e a sancirle che sono del tutto illegali. Le catene di Sant'Antonio, ad esempio, funzionano anche su internet, perché arrivano messaggi che richiamano a particolari situazioni di disagio. Manda questo messaggio, se li mandi puoi guadagnare di più. Il marketing piramidale fa le stesse promesse, ma vediamo di distinguere, perché sono due modi diversi. Sono illegali tutte e due, l'abbiamo capito, erano fastidiose, adesso sono illegali. Certo, sono fastidiose e adesso per fortuna sono illegali. Perché? Perché innanzitutto con la sentenza della Cassazione numero 37.049/2012 finalmente si può leggere la dicitura: le attività commerciali in cui il beneficio economico deriva dal reclutamento di utenti piuttosto che dalla vendita diretta di beni o servizi sono da ritenersi fuori legge. Quindi cosa vuol dire questo? Pensiamo un attimino a come si propongono, come hai detto tu, quando cercano un pochino di adescarti con dei messaggi accattivanti, quali le promesse di facili guadagni e di facile lavoro, e questo normalmente cerca sempre di indurre le persone a ricadere su queste trappole. In realtà poi scopriamo che dietro queste trappole ci sono solo dei meri reclutamenti che hanno lo scopo di creare queste catene di Sant'Antonio, dove poi queste persone vanno dai parenti, vanno dai amici, propongono ogni sorta di prodotto e questi, un po' per imbarazzo di non dirgli di no perché è un amico o un parente, un po' che comunque questo modo di proporsi va un po' a violare quelle che sono le consuetudini di un'attività commerciale entrando a casa tua, cioè creano quella struttura che finalmente la Cassazione l'ha ritenuta illegale. Io devo dire che è anche un modo di fare marketing abbastanza aggressivo, e credo che chiunque di noi, tra prodotti della casa, prodotti di bellezza, le famose pentole e tante altre cose, come hai detto tu all'inizio, ciascuno di noi si è in qualche esperienza della nostra vita trovato coinvolto. Anche perché poi il guadagno non è proprio direttamente sulla vendita degli oggetti, o meglio, è anche su quello, ma soprattutto sul fatto che vengono reclutate persone. Per quello si dice che è piramidale, no? Perché c'è una base che si deve allargare sempre di più, in realtà i guadagni vanno solamente nella punta della piramide. Certo, c'è una base che si deve allargare sempre di più e c'è tutto un sistema di provvigioni che va a incentivare al reclutamento anziché promuovere la vendita di un prodotto. E finalmente con questa decisione la Cassazione, una volta per tutte, è entrata nel merito di una questione che anche noi come Adico molte volte abbiamo sollevato, e ci auguriamo che così le persone possano anche rivolgerci a noi o a chi ritiene come vigili, fare delle adeguate segnalazioni, perché queste catene veramente smettono, perché poi, come abbiamo detto, vanno sempre dentro le abitazioni, vanno a coinvolgere familiari, affetti, parenti, amici, e non è mai piacevole che questi legami vengono utilizzati un pochino per fare dei finti affari o buoni affari allo scopo di andare a ingrassare quelli che stanno ai vertici della piramide, pensiamo anche ai famosi promotori finanziari. Comunque dico, per quanto riguarda la decisione, voglio dire che è una sentenza molto importante, perché finalmente individua come soggetti dei colpevoli proprio secondo la legge italiana, e riconosce che tutto quello che ha a che fare con la forma di vendita piramidale o le cosiddette catene di Sant'Antonio sono di fatto illegali e quindi di conseguenza devono e sono ad oggi quindi vietate. Sono vietate, quindi se qualcuno dovesse ricevere proposte di questo genere, cosa deve fare? Innanzitutto non deve accettare proposte di reclutamento, seconda cosa deve segnalarlo all'Adico e ai vigili perché queste cose devono cessare. Non trovo che sia giusto, anche perché secondo me non sono neanche regolamentate per quanto riguarda poi gli aspetti pratici ai fini anche fiscali, e sono soprattutto selvagge perché, come detto, vanno un pochino a violare quelle che sono le mura domestiche delle persone, e quindi non si identifica più una vendita dentro un centro commerciale. Chiaramente sappiamo che quando la vendita non avviene più dentro un centro commerciale o avviene tramite web o tramite conoscenza, c'è tutto un meccanismo che poi sarà anche difficile controllare, e di fronte anche a delle patologie o di fronte a dei fenomeni quali la garanzia o di fronte anche a quelli che possono essere i diritti che un consumatore può rivendicare a fronte di un acquisto, di un ripensamento, certamente questo diventa tutto più complicato farlo valere. Però è anche vero che, sapendo che questa cosa deve cessare ed è stata ritenuta illegale in quanto tale, come pratica mi auguro che tutti possano dare questo contributo di segnalazione, perché anche in questo senso si possa pensare di smettere a questo reclutamento selvaggio di persone con falsi messaggi di facili guadagni. Altra cosa poi è quello che passa via web. Ogni tanto ci arrivano magari dagli amici dei messaggi simpatici, non so, con delle fotografie o con dei proverbi. Se non lo mandi a 7 persone, a 10 persone, avrai una giornata sfortunata, cose ovviamente un po' così per sorridere. Altro è quando c'è il rischio, appunto, il fenomeno del phishing all'interno di internet. Si inseriscono appunto come dei pesci e noi abbocchiamo all'amo, magari rischiando di inserire dei dati importanti come codici di accesso ai nostri conti. Lì assolutamente, ancora di più, cancellare e via, giusto? Cancellare e via è la parola d'ordine, come hai detto te giustamente. Aprire solo i messaggi di cui siamo sicuri la provenienza e diffidare da qualsiasi messaggio che qualche ente che ha la finalità solo quella di defraudarti dei tuoi dati può inviarti. Dobbiamo pensare che non esistono transazioni o comunicazioni che una banca o le poste possono fare incentivandoti a mettere dei dati perché hai delle forme di accredito che devono essere bonificate, oppure perché hai delle transazioni che aspettano dei beneplaciti per poter essere eseguite. Tutto quello che non viene ricevuto da un mittente che è un nostro stretto conoscente, lasciamolo perdere, eliminiamo subito, e così ci mettiamo, oltre che a riparo da queste truffe, anche magari a riparo da certi virus. Invece, per quanto riguarda le catene di Sant'Antonio, dove, come hai detto te, devi mandarle perché sono portafortuna o altre cose, queste, ecco, possiamo ritenerle anche divertenti, perché comunque molte volte sono occasioni per sorridere. Però stiamo molto attenti a quello che, appunto, come abbiamo detto, il fenomeno del reclutamento o quella che sono le promesse di facili guadagni. Oggi mai come oggi non è possibile pensare di lavorare poco e promettere facili guadagni. Queste formule qua purtroppo rimangono solo dei miraggi, che non vorrei che con un momento di crisi, un momento di difficoltà, molti pensassero di potersi riversare, anche perché, concludo Mirko, che molte volte queste società ti obbligano a comprare un certo quantitativo di prodotto, perché poi questo prodotto deve essere venduto, quindi sai, il reclutamento è anche la finalità per chi sta sopra queste piramidi di vendere fondamentalmente, poi il problema diventa di chi successivamente deve cercare di destinarlo. Che a sua volta coinvolge altre persone, no? Perché la piramide non ti schiacci, alla fine devi suddividere il peso con altri, è proprio un fenomeno così. Allora, con questo chiudiamo questo argomento. Tra un paio di giorni, se non succedono altri disastri economici in giro per l'Italia, parleremo dei consumi presunti in bolletta, quindi preparatevi. Grazie intanto all'Adico e a Carlo Garofolini, buona giornata. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.